con il regista Roberto Faenza per parlare del progetto U-Trailer per un rinascimento digitale del cinema classico italiano. Roberto, ben trovato. Buonasera a tutti, come Tutto bene, tu? va? Bene, beh, in un paese così dire bene non è facile. Comunque diciamolo, dai, per tenerci su. Ok, è stato presentato l'altro giorno questo progetto molto interessante, ce ne parli? Dunque, allora, questo progetto si chiama U-Trailer, è un progetto dedicato alle scuole superiori italiane, tra l'altro finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali, e tende a far conoscere ai nostri ragazzi il cinema del passato che loro ignorano completamente. Ti faccio un esempio, io pochi mesi fa vado spesso nelle scuole a mostrare film miei e non soltanto miei. Pochi mesi fa ho fatto una proiezione Sostine Pereira a circa 400 ragazzi di un liceo romano, nessuno aveva mai visto, ma nessuno mai visto un film di Mastroianni, con Mastroianni. Poi pochi mesi prima ero andato a Palermo a presentare un film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano, c'erano 1.000 ragazzi tra liceo scientifico e liceo classico, mai nessuno, ma neanche uno anche lì sapeva chi era Francesco Rosi. Allora mi sono convinto che siamo veramente, non so, al crimine verso la memoria, ma non è colpa dei ragazzi ovviamente, è colpa nostra che non abbiamo mai fatto nulla per coltivarla. La televisione non fa vedere i film del passato, internet li ignora, le case di distribuzione che hanno i DVD sono quasi fallite, quelle che avevano il patrimonio maggiore appunto dei film classici. E per cui questo progetto tende a stabilire un concorso per i ragazzi per fargli fare un trailer dei film che allora non avevano i trailer, non so, Rossellini, De Sica, Visconti, Comencini, Rosi, eccetera, fargli fare un trailer di modo che da una parte esprimono la loro creatività, dall'altra parte portano in vita ciò che è nei cimiteri del passato. E soprattutto vedono i film che loro non conoscono. Ecco, questo è il progetto. Come si articolerà? Noi a breve, tra pochi giorni, metteremo in rete il bando, che tra l'altro verrà poi socializzato anche dai vari ministeri, quindi avrà una larga diffusione. Questo bando contempla i criteri per cui si può accedere a realizzare questo trailer, cioè i ragazzi avranno a disposizione una ventina di film, 21 per l'esattezza. Potranno scaricarli come fanno loro, scegliere delle sequenze, realizzare un trailer e mandarlo e noi ne selezioneremo 50, all'interno di questi 50 ne premieremo 5-6 con dei premi abbastanza consistenti. Va detto che noi abbiamo già in rete, lanciato proprio ieri, dei promo fatti da degli studenti che lanciano il progetto, quindi non sono i trailer, sono i promo del progetto. Sono così belli, così divertenti, non so, alcuni si sono addirittura messi in costume per realizzare un promo di un film del passato. Sono così ben fatti, così pieni di creatività, che io mi chiedo se noi registi adulti siamo ancora in grado di competere con questi ragazzi. Io forse smetto di fare il regista. Ma non sto scherzando, sono una cosa, veramente sono rimasto sbalordito. Fatto con delle piccole telecamere, con piccoli gruppi di studenti, cioè hanno una capacità creativa e anche professionale altissima. Al di là del premio, si andrà per accumulo, nel senso poi si archivieranno tutti questi trailer Beh realizzati? sì, io penso che noi li metteremo in rete, cioè intanto chiederemo l'autorizzazione agli aventi diritto di questi film, che penso saranno ben contenti di vedere una modernizzazione delle loro opere, delle opere che loro hanno conservato. E quindi se loro lo consentiranno li metteremo in rete di modo che tutti le possano vedere, anzi sono convinto che loro saranno i primi che lo vorranno che faremo queste cose. Questo progetto è patrocinato da CineONU Italia, di cui sei il direttore. Ci parli di questa struttura? Devo dire che a Bruxelles da molti anni una funzionaria dell'ONU, Karen Davis, una donna straordinaria, ha avuto questa idea 7-8 anni fa di fare una specie di cineforum patrocinato appunto dalle Nazioni Unite che lei ha organizzato a Bruxelles, mi sembra in Svizzera, in Francia e forse qualche altro in Belgio, soprattutto. questo Cineforum proiettano dei film a tematiche ONU, cioè l'ONU spazia dai rifugiati, le ragazze senza genitori, insomma ha molte tematiche di cui si occupa, e mi hanno incaricato di fare delle proiezioni di questo genere anche in Italia, che noi facciamo insieme alla Sapienza, all'Università. Non so, ne abbiamo fatte alcune con Don Ciotti, con Libera, con la comunità di Sant'Egidio, con altre piccole organizzazioni. Insomma, tendiamo a portare un cinema che in genere non viene molto, molto visto, che è quello dell'impegno dei diritti umani, e abbiamo appunto in mente di questo. Ve lo posso dire in anteprima, di organizzare a fine novembre prossimo, a metà o fine novembre, un festival, dei festival dei diritti umani, in cui proietteremo alcuni film selezionati nei vari festival che ci sono in giro per il mondo, uno per esempio forse il più importante a Ginevra, molto molto ben organizzato, quindi faremo vedere questi due o tre film al giorno per tre giorni selezionati dagli altri festival. E poi porteremo anche la musica impegnata nei diritti umani, la poesia, la scrittura, insomma vorremmo lanciare un festival dei festival dei diritti umani aperto soprattutto ai ragazzi. La prima versione sarà qua a Roma e poi penso che lo porteremo in giro per l'Italia. Ricordiamo il progetto U-Trailer per un rinascimento digitale del cinema classico italiano. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Faenza, co-direttore. Mi raccomando, continuate a esistere perché qui la situazione non è bella. Va bene, ciao. Va bene, a presto, ciao Roberto.